in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore e ormai, come credo da 3-4 settimane, tutti i giornali sono dominati da tutto quello che riguarda l'epidemia da coronavirus e la malattia, il Covid-19. Cominciamo dal Sole 24 Ore perché ci sono importanti novità ogni giorno, ce ne sono, sulle misure, soprattutto economiche. Questo è il titolo: sbloccati i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, Golden Power anche per scalate Unione Europea. Il Golden Power, che letteralmente è una potenza d'oro, quindi una potenza forte, un potere forte, è un termine finanziario per indicare la possibilità di bloccare un'operazione, in questo caso una scalata, quando viene definita ostile o comunque pericolosa per un'azienda. Fino adesso era una misura riservata a operazioni che venivano da paesi fuori dall'Unione Europea. Adesso si estende questa possibilità anche a operazioni che riguardano l'Unione Europea. Il problema è che, prospettato da molti, ci sia in questo momento di grande difficoltà per molte aziende di tutte le dimensioni i tentativi di scalate, appunto di comprarle a prezzi cosiddetti di saldo dall'estero. Poi vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche un'intervista richiamata in prima pagina, appunto, di Giorgio Pogliotti a Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che dice è necessario difendere imprese e lavoro. Poi naturalmente su come farlo si innesta il grande tema di riprendere gradualmente le attività produttive che sono state interrotte. Un interessantissimo tema è quello delle semplificazioni. Proprio ieri ho incontrato per caso in fila davanti a un supermercato un carissimo amico commercialista che mi diceva soltanto nell'ultimo decreto abbiamo 66 pagine da consultare per capire come muoverci. E quindi questo approfondimento che trovate a pagina 5 di tre colleghi della redazione di Norme e Tributi, per gestire l'emergenza 234 interventi normativi, quindi per un totale di 234 provvedimenti e un totale di 1039 pagine. E purtroppo questo è uno stile della, sapete che in Italia abbiamo 100 volte tanto le leggi, per esempio, che ci sono in Germania. Era una cosa che mi aveva sempre fatto effetto quando appunto studiavo diritto pubblico e comparavamo i diversi corpus legislativi dei paesi, e in questo caso si dimostra ancora una volta questo vizio di legiferare fin troppo, fin nei dettagli, dopodiché si rischia naturalmente o di non aver letto tutto quello che viene previsto dalla legge, o magari di violare la legge, perché non è possibile in così poco tempo capire tutto quello che prevedono questi provvedimenti. La Lombardia, il Corriere della Sera, titolo: Lombardia, obbligo di mascherina, è la grande novità, l'avete sentito anche nel GR di ieri, mascherina o comunque una protezione per bocca e naso quando si esce di casa, è un'ordinanza della Lombardia, quindi del governatore Fontana. La foto è stata scattata a Robbio, in provincia di Pavia, dove un palazzetto dello sport è stato adibito a luogo per fare i test sierologici. E la foto serve anche a richiamare un'intervista al presidente del Senato Elisabetta Casellati, fatta da Paola Di Caro. Il titolo è: ora facciamo test sierologici diffusi e poi la ripartenza. La Repubblica, italiani, sarà lunga, il riferimento è a un'intervista al ministro della Salute Speranza, che trovate a pagina 7, dovremo convivere con il virus, e poi preannuncia anche alcuni cambiamenti per la sanità. È però interessantissimo e doloroso anche da leggere per tanti motivi. Primo perché parliamo di un'istituzione milanese, ma soprattutto perché torna il tema di come hanno vissuto e come stanno vivendo questa epidemia gli anziani. E perché vi dico questo? Perché a pagina 3 Gad Lerner racconta la strage nascosta del Trivulzio. è uno dei più grandi poli geriatrici d'Europa, in Milano appunto è molto famoso, ma è famoso anche perché da lì partì Tangentopoli nel 1993, perché Mario Chiesa, all'epoca uomo del PSI, gettò in un water le banconote di una tangente, e comunque, ripeto, la Tangentopoli partì proprio da lì. Ma quello che racconta Gad Lerner è questa strage silenziosa, sia al Trivulzio, dove è stata aperta un'indagine per 70 morti, e poi comunque Michele Bocci, a pagina 2, questa strage silenziosa, focolai nelle case di riposo, il Picco in Lombardia, ucciso un ospite su 10. L'Istituto Superiore di Sanità studia gli effetti del virus sugli anziani, perché sono già centinaia le vittime. Sapete che sono appunto e poi dipende anche da che cosa si intende esattamente per anziani, però sappiamo che il gruppo degli over 75 è comunque di gran lunga quello più colpito da questa epidemia. L'Espresso dedica la copertina, che è in edicola con La Repubblica come ogni domenica, al coronavirus, e in particolare è una foto di proprio una persona anziana che viene sollevata da 3 operatori sanitari, presumibilmente per portarla in ospedale, la cura e la pietà. E qui c'è l'altro grande tema che trovate su molti giornali e che sicuramente verrà affrontato nei prossimi giorni, che è quello, se soprattutto nei paesi dove, in Italia sappiamo, ieri l'avete sentito nel GR, è calato il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ma ci sono altri paesi, in primis gli Stati Uniti, dove in realtà probabilmente nei prossimi giorni, soprattutto a partire da New York, che non ha ancora raggiunto il picco per stessa ammissione del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ma anche in altri stati, quindi aumenteranno le persone che hanno bisogno di terapia intensiva, quindi di respiratori. Il grande tema sarà: se non ce ne sono abbastanza, se in un dato momento sono disponibili tot respiratori, tot ventilatori, tot posti in terapia intensiva, e ci sono più persone che ne hanno bisogno, come si fa a scegliere chi deve fare quella scelta? Saranno i medici, con ogni probabilità. Sono già state stilate delle linee guida che, ripeto, fanno paura, perché fare queste scelte tra persone, per esempio, che hanno condizioni pregresse che quasi certamente porteranno alla morte nonostante il ricovero in terapia intensiva, oppure bisogna scegliere tra persone che hanno più o meno le stesse condizioni fisiche, ma una è più giovane dell'altra, e questo anche, appunto, da qui anche la copertina dell'Espresso, la cura e la pietà. La Stampa titola su questo numero che cala, quindi è un numero negativo e che quindi è una notizia positiva: virus, calano i ricoveri in terapia intensiva. E poi la foto è quella di un funerale a Seriate, in provincia di Bergamo, dove il parroco ha celebrato un funerale con un solo parente al seguito, perché naturalmente queste sono le misure. Com'è crudele morire lontano dai propri cari, è l'articolo di Domenico Quirico. Il Messaggero: piano a tappe per le riaperture, si sta appunto già cominciando a parlare di fase 2, fase 3, e venerdì dovrebbe esserci un nuovo decreto, dopo Pasqua appunto una graduale ripresa per le aziende. Per i cittadini si fa strada, secondo il Messaggero, l'ipotesi 3 maggio. Mascherine obbligatorie in Lombardia, con Borrelli, capo della Protezione Civile, nonché commissario per questa emergenza, che dice: io non la uso, che è un po' lo stesso atteggiamento che ha avuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il CDC, il Center for Diseases for Control and Diseases and Control, quindi un po' il centro delle malattie infettive, non ha un vero equivalente in Italia, comunque è una delle autorità sanitarie che sta coordinando la risposta degli Stati Uniti all'epidemia, ha consigliato, non ha il potere di emanare l'equivalente di un'ordinanza, non ha il potere di emanare una legge, ma ha consigliato a tutti gli americani di usare le mascherine, e il presidente Trump ha detto: è un consiglio e io personalmente non la userò. Avvenire, il momento delle scelte. I dati del contagio in leggero miglioramento, il governo prepara i decreti, quindi lo stesso tema del messaggero, sulla fase 2, quindi la fase in cui cominceranno a riaprire per esempio degli esercizi commerciali o alcune attività produttive, e la Lombardia introduce da oggi l'obbligo di coprirsi il volto. Il tema richiamato dalla foto in prima pagina è quello che come la Chiesa si prepara a celebrare, la Chiesa Cattolica naturalmente, a celebrare la Pasqua, l'ulivo che c'è col Papa, le palme sono domestiche, perché questa naturalmente è la Domenica delle Palme, cioè la domenica prima della Domenica di Pasqua. Il Secolo XIX, il quotidiano di Genova, ve lo segnalo perché c'è un problema, e qui si è attivato un altro governatore, quello della Liguria, con le persone che potrebbero in questo fine settimana aver lasciato alcune regioni, in particolare Lombardia, per andare verso le seconde case in Liguria. Allarme seconde case, più controlli sulle strade liguri, segnalato un aumento del traffico. La stretta in Lombardia, si può uscire solo con il volto coperto. La foto è dedicata a un contrabbando di mascherine che è stato svelato proprio a Genova dalla Guardia di Finanza di Genova grazie a un algoritmo, e c'è la foto appunto di questo sequestro di mascherine. Il giornale sulla maschera, in riferimento naturalmente alla misura di cui parlavamo per la Lombardia, e anche qui approfondimento sulle nuove misure per le imprese, prestiti garantiti, ipotesi reddito di emergenza. E poi due foto, una di Borrelli, abbiamo detto appunto il capo della protezione civile e anche commissario straordinario, e poi la foto di degli uomini della scorta di Giuseppe Conte, che in realtà aveva lavorato anche con quattro altri premier, e sapete che era stato ricoverato per coronavirus ed è morto a Roma. Non aveva malattie pregresse. Quello che possiamo dire, semplicemente guardando le foto e i racconti, è che una delle difficoltà delle persone che vengono colpite da coronavirus è il sovrappeso, è l'unica cosa che possiamo vedere, ma la famiglia appunto dice non aveva malattie pregresse, e anche qui si riapre il tema di come colpisce in effetti il virus negli Stati Uniti. Per esempio, sono molte le persone giovani, però anche lì c'è questo, sono stati dati fatti alcuni approfondimenti, e purtroppo, essendo negli Stati Uniti un terzo della popolazione obesa, e questo vale anche per gruppi di persone molto giovani, e un terzo è sovrappeso, si spiega anche così la differente mortalità, appunto, e il fatto che il virus miete molte vittime anche tra persone giovani. La prima pagina di Libero ve la segnalo con grandissima gioia, vabbè, a parte il titolo, che naturalmente è molto critico nei confronti del governo, non è la prima volta, quindi il trionfo dei peggiori. A gestire l'emergenza ci sono un avvocato, Conte, un ex steward del San Paolo, e naturalmente parliamo di Luigi Di Maio, e un ex concorrente del Grande Fratello, che sappiamo essere Rocco Casalino, portavoce del governo Conte. Ma perché vi dico importante la prima pagina di Libero? Perché c'è un approfondimento che poi trovate a pagina 15. Per favore, fughiamo ogni dubbio: non è vero che cani e gatti ci infettano, gli animali non portano il contagio, semmai lo subiscono. E con questo facciamo una piccola pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica, e grazie a tutti gli ascoltatori che così presto stanno mandando messaggi, WhatsApp o SMS al 349-238-6666. Due precisazioni all'ascoltatore che chiede su quale quotidiano è scritto dell'obesità legata al coronavirus. No, non è scritto sui quotidiani, è le informazioni che stanno dando le televisioni americane. Io cerco di ascoltare molte notizie da lì, perché ripeto, in questo momento è il paese da tenere d'occhio la Cina ha superato qualsiasi altro paese per numero di contagiati, numero di morti, e quindi cerco di appunto di capire che cosa sta succedendo lì. L'altro ascoltatore che dice che la devo smettere di parlare, di commentare in pidiese, naturalmente non so che cosa intenda, però tanto vale citarlo. E invece all'ascoltatore che dice citare il sovrappeso è una cattiveria che potevi risparmiarti, guardi, è un argomento delicatissimo quello del sovrappeso, e io ne sono perfettamente conscia. Se le è sembrata una cattiveria, mi dispiace molto, tutto voleva essere meno che quello. ma è un fatto che purtroppo l'obesità grave e anche il sovrappeso è per esempio legato alla pressione alta, al diabete, e queste sono quelle condizioni che rendono più vulnerabili quando si viene aggrediti a questo coronavirus. Tutto qua, volevo solo dire questo per cercare di capire perché un uomo evidentemente in salute, per stessa dichiarazione dei familiari, è morto in così pochi giorni per il coronavirus. E anzi, voleva essere un segno di rispetto, di comprensione. Se è suonato in modo diverso, davvero me ne scuso, perché, ripeto, è un tema delicatissimo. E l'obesità, come dice, adesso naturalmente ci sono tutti i gradi, il sovrappeso che può sfociare nell'obesità, che può sfociare nell'obesità grave, e sono appunto, è una condizione che rende più vulnerabili a tante malattie, compresa purtroppo questa, il Covid-19. Vi dicevo, Libero, unico giornale che mette in prima pagina questa notizia, ma la ripeto perché è veramente importante, cioè questa è veramente una fake news, l'idea che cani, gatti o altri animali domestici possano essere un pericolo. E Azzurra Barbuto lo dice molto chiaramente nel titolo: basta con la bufala dei gatti che portano il virus. Voi sapete che siamo a delle cifre che fanno paura per quanto riguarda i contagiati. Bene, sappiate che dall'inizio della pandemia ci sono 4 casi documentati di contagio, ma sono stati i padroni a passare il virus ai cani e ai gatti e non il contrario. La verità: il partito della patrimoniale, questo è il titolo di apertura, perché si fa strada da più parti, non soltanto in Italia, in Germania per esempio ne parla la SPD, il Partito Socialdemocratico, l'idea appunto di una patrimoniale, di una task, che quando si dice così è una, in generale una, bisogna poi vedere come viene fatta per esempio un prelievo sul, è una forma di patrimoniale, accadde quando fu introdotto l'euro, un prelievo sui conti correnti, un prelievo ulteriore sui patrimoni o un'introduzione della tassa sulla casa, bisogna vedere poi che cosa si intende, però comunque ne se n'è parlato, è stato molto criticato anche uno dei leader delle Sardine, Matteo Sartori, perché anche lui ne ha parlato. Vedremo se su questo poi ci saranno delle decisioni ufficiali da parte del governo. Il Fatto Quotidiano ha in prima pagina questo tema degli anziani, centri degli anziani, e qui si va un po' oltre, perché nell'inchiesta che ha fatto il Fatto Quotidiano, il virgolettato è: fu la regione a vietarci di chiuderli. 820 morti nelle residenze appunto per anziani bergamasche, e due dirigenti dicono: minacce dell'azienda territoriale sanitaria a febbraio, e poi però ci fu un controordine, ma era naturalmente troppo tardi. Andiamo nelle pagine interne. Vi dicevo, l'intervista di Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, a Giorgio Pogliotti, la trovate a pagina 5. Urgente la liquidità alle imprese, occorre difendere il lavoro. Per imprese naturalmente intendiamo tutte le imprese, forse non ci pensava Landini, ma naturalmente anche le imprese commerciali, che come sapete nella maggior parte dei casi sono chiuse, quindi non c'è liquidità, e non c'è quindi neanche liquidità per pagare per esempio i fornitori o tutti gli altri costi fissi. A proposito di imprese commerciali, l'ascoltatore che dice: ma come faceva a parlare col suo amico mantenendo la distanza di un metro? Purtroppo a me non piace, ma si può alzare la voce e si riesce a parlare anche mantenendo un metro di distanza. Forse eravamo addirittura a più di un metro di distanza. Sempre dal Sole 24 Ore, vi dicevo, la pagina interessantissima su questo tema della quantità di leggi, di decreti e di provvedimenti, e quindi pagina 5, 1000 pagine di norme per la gestione dell'emergenza. Cittadini e professionisti alle prese con i conflitti tra leggi, note e ordinanze di Stato, regioni e comuni. Nella conversione del decreto legge Cura Italia, una prima semplificazione, perché come sapete ogni decreto legge, ogni legge in Italia poi deve avere i decreti attuativi e di conversione, e in questo caso si punterà soprattutto sulla semplificazione. E tra l'altro vi ricordo comunque mercoledì prossimo, l'8 aprile, in edicola con il Sole 24 Ore, uno speciale decreto coronavirus con tutte le misure che riguardano le famiglie, quindi mutui, aiuti al reddito, permessi e anche scuola. Molto interessante, abbiamo visto il ministro Speranza che dà un'intervista a Repubblica e annuncia grandi cambiamenti nella sanità dopo, una volta usciti dall'emergenza, ma vediamo che cosa è successo in passato. Pagina 8 del Sole 24 Ore, sanità, tagliati 45.000 posti, ma la spesa ha corso più del PIL. PD e Movimento 5 Stelle rilanciano la centralizzazione, sapete che la sanità per le modifiche che sono state fatte nel corso degli anni nella Costituzione è materia regionale, di competenza regionale, però Zaia minaccia già un referendum, decideranno i veneti. Le strutture comunque sono state colpite dal turnover, cioè il fatto che molte persone siano andate in pensione, e commissariamenti. Dal 2000 a oggi la spesa sanitaria è passata da 66 a 116,4 miliardi, con un aumento medio del 3,5%. Molto interessante un altro aspetto che viene approfondito da Stefano Elli a pagina 9 del Sole 24 Ore, quello dell'economia in nero. Sistema lo sbando in balia delle cosche, emergenza sociale. Il sommerso, secondo l'Istat, vale per l'Italia oltre 190 miliardi di euro, imprese e servizi senza liquidità né sussidi sulle quali si sta muovendo la criminalità organizzata. E poi un bel incontro, Vincenzo Chierchi, a pagina 12 della serie A tu per tu, con Francesco Mutti, imprenditore alimentare, anche presidente di Centromarca, che naturalmente racconta come sta vivendo lui questo periodo, letture, yoga, lavoro, ma anche sapete che Mutti è una di quelle aziende che ovviamente non ha chiuso perché fa parte della filiera alimentare, ma sta anche prevedendo dei bonus per i suoi lavoratori che... appunto per poter mandare avanti l'azienda, anzi forse addirittura a regime ancora maggiore rispetto a condizioni normali, appunto stanno lavorando tra l'altro con tutte le precauzioni che rendono comunque il lavoro meno semplice, quello delle mascherine, del distanziamento. Dice l'industria alimentare è fatta di filiere lunghe tra servizi e produzione. Oh, poi la pagina Sport e Business si torna anche sulle conseguenze sullo sport di questa emergenza. Marco Bellinazzo ci racconta sfida da Serie A per ristrutturare la legge sugli stati. Joe Barone, che è direttore generale della Fiorentina, dice una nuova disciplina sull'impiantistica per aumentare i ricavi e attrarre investitori. La sezione Lifestyle, anche in questo caso legata all'emergenza, Federico De Cesare Viola ci racconta quanta bontà in un pranzo di Pasqua a domicilio, perché appunto saremo tutti a casa per Pasqua. Dai ristoranti stellati alle trattorie, dalle botteghe alle pasticcerie, l'offerta è ricca e aiuta la filiera agricola. E la seconda pagina della sezione Lifestyle invece dedicata a chi vuole fare in particolare yoga all'interno, senza naturalmente muoversi da casa o frequentare i consueti luoghi dove si fa yoga insieme, un tappeto magico per volare fuori casa, lezioni di gruppo, pacchetti personalizzati gratis con contributo o con contributo per beneficenza, yoga e pilates su social e YouTube, come palestre sul web per allenare fisico e psiche. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'intervista a Giovanni Bazzoli, presidente emerito di Intesa San Paolo, che è la prima banca italiana, che dice: in guerra eravamo nascosti ma sapevamo chi era il nemico. Può dirlo perché Giovanni Bazzoli è del 1932, quindi tra l'altro è bresciano, una delle zone appunto più colpite in Lombardia dal coronavirus, e era piccolo naturalmente durante la Seconda Guerra Mondiale, però se la ricorda molto bene, ricorda anche il periodo della ricostruzione, lo racconta Aldo Cazzullo e dice: oggi non sappiamo da dove viene l'insidia alla vita ed è paradossale doversi tenere lontani dai familiari. E Luigi Ippolito da Londra ci racconta, tra l'altro stasera la regina Elisabetta, che è in isolamento al castello di Windsor parlerà la nazione, la quarta volta che lo fa direttamente da quando è regina, perché i discorsi che fa normalmente, per esempio, per Natale sono registrati. Qui è proprio un discorso alla nazione, e Luigi Ippolito ci racconta questa curiosità. Insomma, da Londra, sola con due paggi e la fedele Kelly, Elisabetta si prepara all'appello in TV. Dalla Repubblica, vi dicevo, l'intervista, il colloquio con il ministro della salute Roberto Speranza, l'ho trovata a pagina 7 di Claudio Tito. Non è finita, dalle app agli ospedali Covid, ecco il mio piano antivirus. E poi Repubblica ospita anche un intervento di Pedro Sanchez, il primo ministro spagnolo, che insieme all'Italia, sapete, è il paese più colpito in Italia, che dice: cara Europa, basta dogmi, senza solidarietà perdiamo tutti. Dal Messaggero vi segnalo pagina 3 un approfondimento su questa app di cui si parla tanto per tracciare le persone positive al Covid. Verrà introdotta per esempio in Germania, ne parlavano i quotidiani tedeschi questa settimana, ma per quanto riguarda l'Italia, racconta Francesco Malfetano, più vicina all'app per tracciare i positivi, ma sarà operativa solo con la fase 2. Il progetto verrà lanciato mercoledì, ma non sarà semplice ricondurre a un solo obiettivo le varie tecnologie disponibili. L'approfondimento su come appunto la Chiesa Cattolica si prepara primo a festeggiare la Domenica delle Palme e poi naturalmente Pasqua, pagina 5 dell'Avvenire: per il Papa in San Pietro e senza fedeli, una Domenica delle Palme speciale, e poi appunto quello che succederà invece per Pasqua. Interessante quest'altro approfondimento dell'Avvenire su Ponza e Ventotene, le due isole a contagio zero. L'abitudine all'allontananza sta pagando, nessuna infezione su 5.000 persone, secondo i sindaci, parlano i sindaci di queste due isole, la ricetta è pendolarismo bloccato e meno contatti possibili con la terraferma funzionano. E noi invece ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica e grazie ancora agli ascoltatori, in particolare l'ascoltatore che dice: ah, chissà parlare a voce alta in coda. Sì, può essere, non abbiamo parlato dei fatti nostri in generale, ma appunto era un commercialista, mi dava alcune informazioni che forse, azzardo, potevano persino interessare alle persone che, avendo alzato noi un pochino la voce per appunto farci sentire a distanza di un metro, forse anche più, queste informazioni forse non erano nemmeno così da buttare, non erano appunto fatti personali. E all'ascoltatore che dice: il fatto che gli animali non contagino mi sembra contro ogni logica, respirano anche loro. Caro ascoltatore, se le piace la scienza, la medicina, studi naturalmente su fonti, può usare naturalmente internet, basta che siano siti seri. Ci sono tantissime malattie che non passano dall'uomo agli animali, né dagli animali all'uomo. È così, è la natura, è la scienza, è l'infettivologia, non è la logica, perché la logica è un'altra cosa. Ma torniamo alle pagine interne. Il Manifesto ha un approfondimento su quello che sta succedendo in Brasile. Sapete che Jair Bolsonaro è uno degli ultimi leader, insieme ce ne sono anche alcuni altri, però è uno degli ultimi grandi leader che continua a sottovalutare il virus, continua a dire che è poco più di un'influenza. Peraltro si è presentato con una mascherina nei giorni scorsi, ma pochi giorni prima era comunque uscito dalla sua residenza presidenziale, incontrato dei sostenitori per strada. Il Brasile, peraltro, siccome molti governatori di alcuni stati del Brasile hanno disposto dei lockdown come quello che conosciamo noi, e quindi anche lì la conseguenza immediata è stata tante persone senza lavoro, quindi è già stato varato un pacchetto di aiuti economici e ora si sta pensando a in qualche modo a far cambiare opinione al presidente Bolsonaro, o si dice, perché queste sono voci molto difficili da verificare, secondo per esempio il Manifesto l'esercito trama e si vorrebbe, secondo molti, si vorrebbe sostituirlo con il suo vice Hamilton Mourão, che si vede nella foto pubblicata dal Manifesto. E poi c'è l'altro tema, quello del coronavirus in Africa. Per esempio in Sudafrica è stato imposto un lockdown anche a Johannesburg e anche qui Luca Manes da Johannesburg ci racconta la situazione: catastrofe, virus e rabbia sociale in Sudafrica. Nel paese africano con il maggior numero di contagi dell'Africa, il governo teme il peggio, vara misure draconiane, militarizzate le township. Il problema è che ci sono 7 milioni di persone che hanno comunque bisogno, per esempio, di mettersi in fila per un pasto. Immaginate che cosa vuol dire. Dunque, dal Fatto Quotidiano vi segnalavo questa inchiesta molto interessante su quello che sta su quello che è successo nelle case di riposo, pagine 6 e 7. E dal Fatto Quotidiano una finestra sulla Siria, che, di cui purtroppo non si riesce più a parlare perché il coronavirus è la priorità per tutti. E a pagina 19 trovate una intervista di Benedetta Argentieri, che è inviata in Siria, a Ilham Amare, che è la fondatrice della Casa per le Vittime di Abusi Domestici nel Rojava curdo, lotta per la parità dall'età di 16 anni, e dice: prima il regime, poi l'ISIS, l'altra guerra è sulle donne. Era rimasto sotto le altre pagine, quindi mi mancava da segnalarvi la prima pagina del Manifesto. Non si ferma, la foto è una foto scattata in Piazza del Duomo. In realtà io ieri sono stata in Piazza del Duomo, ho preso la metropolitana lì per venire qui e non era come dalla fotografia del Manifesto. Io non credo che questa fotografia sia di ieri. Detto questo, però dai numeri ufficiali pare che appunto ci siano state più persone in giro a Milano e in Lombardia ieri, e quindi ricorderete lo slogan lanciato dopo 10 giorni di lockdown: Milano non si ferma. E invece il Manifesto oggi, con un gioco di parole che spesso usa per le sue prime pagine, non si ferma. Ma passiamo ai supplementi culturali, abbiamo qualche minuto in più del solito. La domenica del Sole 24 Ore, copertina è dedicata a Raffaello, è perché il 6 aprile del 1520 moriva a Roma, e quindi ci sono naturalmente tantissimi libri e mostre che potremmo vedere solo virtualmente finché i musei non riapriranno. Ce ne parla Lina Bolzoni, ma vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Stupidità, e la citazione è questa: per il bene la stupidità è un nemico più pericoloso della malvagità. Parlando con lo stupido ci si accorge che non si ha a che fare direttamente e personalmente con lui, ma con gli slogan, i motti, i luoghi comuni da cui è dominato. E scrive Ravasi: il 9 aprile 1945, quando il mostro nazista si dibatteva nei suoi ultimi sussulti violenti, nel lager di Flossenbürg, il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer veniva impiccato a 39 anni. Tra le opere di alta teologia e di forte testimonianza, basti citare Resistenza e resa, che egli lasciava, c'era pure un piccolo saggio lapidariamente intitolato Della stupidità. E dato che gli stupidi impressionano non foss'altro che per il numero, come diceva Riccardo Bacchelli, è giusto riproporre una scheggia di riflessione come quella sopra citata. Sì, perché lo stolto è spesso più pericoloso del malvagio, perché si nasconde sotto l'apparente manto della banalità. E invece, come sperimentiamo ai nostri giorni, la stupidità è pericolosa e contagiosa, è circondata subito da discepoli premurosi e zelanti. Il sapiente si trova non di rado impotente, perché non è possibile ragionare con chi procede per slogan e stereotipi, proclamati con sussiegosa certezza. Infatti, come afferma la saggezza ebraica, il sapiente sa quel che dice, lo stupido dice quel che sa. E dalle pagine interne del Domenicale vi segnalo una lunga recensione di Gilberto Corbellini a un libro pubblicato a Londra da Profile Book, che si chiama The Rules of Contagion: Why Things Spread and Why They Stop. Se mentono pure i numeri, questo è il titolo della recensione. Matematica del contagio, la tentazione di applicare modelli a fenomeni complessi come l'epidemia genera l'ingannevole sensazione di poter calcolare il diffondersi del virus. Un'altra bellissima recensione di Giorgio Vallortigara, che per la Domenica del Sole 24 Ore recensisce spesso saggi o papers sull'etologia, e questa recensione è del libro di Frans de Waal, il grandissimo etologo sudafricano, che si intitola L'ultimo abbraccio, cosa dicono di noi le emozioni degli animali. L'ha pubblicato Cortina e... il senso di questo libro è che, secondo Frans de Waal, non è irragionevole adottare un approccio antropomorfico, cioè applicare agli animali alcuni ragionamenti, regole che applichiamo all'Homo sapiens, nello studio di animali come le grandi scimmie, che ci sono molto vicine, ma naturalmente serve cautela. E poi Cristina Battocletti, si discute molto della situazione del cinema, in generale di tutta l'industria culturale in questo momento, che è bloccata, anche le uscite al cinema sono bloccate, ma intanto, per esempio, Cristina Battocletti ci racconta come sta cambiando comunque il cinema. La tecnologia ha dato la possibilità ai registi di creare finti piani sequenza, le serie TV hanno liberato i film dalla durata standard, permettendo la sperimentazione. E invece dall'ultima pagina, quella a tempo liberato, vi segnalo due articoli, uno di Stefano Salis, che è la recensione di un libro che si intitola Futurismo postale e che riguarda in particolare tutta la parte, insomma, di francobolli o di cartoline, lettere di quel periodo del futurismo. Saluti e baci dai nostri cari futuristi. E poi invece una recensione di Francesca Milano di un libro di Samin Nosrat, pubblicato da Guido Tommasi Editore, che si intitola Sale, grassi, acidi, calorie, i quattro elementi della buona cucina. E visto che pare moltissimi di noi italiani, e non solo, stanno usando questo lockdown anche per riscoprire l'arte di cucinare, può essere appunto una lettura utile. A proposito di letture, la lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Patrick Tuttofuoco, e poi le prime quattro pagine sono, innanzitutto c'è un ricordo di Telmo Pievani, che tra l'altro una voce che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, è un etologo e ha perso il padre per il coronavirus. Bruno Pievani si è spento a Bergamo il 9 marzo nel pieno di una crisi epocale che qui ha sterminato affetti e famiglie. Ce lo racconta proprio Telmo Pievani in prima persona. Niente funerale né cerimonie, un saluto rapido davanti al cimitero chiuso, poi i camion hanno portato via le bare. E poi c'è una lunga intervista di Nuccio Ordine a Edgar Morin, Fratelli del Mondo. A 98 anni, pensate, questo filosofo, e appunto naturalmente riflette anche su quello che ci sta succedendo in questo momento. Vi segnalo poi dalla Robinson, il supplemento settimanale della Repubblica, in edicola da ieri, la copertina Lo Zen e l'arte di pulire la casa. Tanti approfondimenti su questo tema, perché è un altro dei modi in cui cerchiamo di passare il tempo quando siamo costretti a casa, appunto mettere ordine e pulire. Due interviste bellissime, una a Ramin Barani, il grande pianista, di Leonetta Bentivoglio, La mia verità sulla malinconia, sempre su Robinson. E poi la consueta intervista della serie Straparlando di Antonio Gnoli, questa settimana a Pier Giorgio Bellocchio, Quella volta che stroncai Lolita. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora una buona domenica a tutti, un grazie a Peter Bescapè in regia, e come dicono gli americani, stay safe, state al sicuro, stay strong, rimanete forti. Una buona domenica da Giulia Crivelli.